sostanziale, speciale, eccezionale, se tu sei ta speciale. Cosa spaziale, speciale, eccezionale, se tu sei tu sei ta. Ed eccoci di nuovo qui alle puntate di Coxo Spaziale Speciale Setup, in questa occasione con un super mega galattico co-conduttore, ma veramente co-conduttore radiofonico per eccellenza, il grande William Piana, grande in tutti i sensi, da Radio Città Fujiko. Grazie Fedra per questa presentazione, grande solo nei 2,05 metri, peraltro diciamo che il contenuto lascia un po' a desiderare, è meglio dire roba cenna, roba fengna in questo caso, però grazie per l'invito, buonasera a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori. Gemellaggio Special Twilight Coxo Spaziale ormai consacrato con questo scambio di presenze. A me addirittura manca il fiato, non so se riuscirò a tenere sempre i tempi in questo modo e in questo ritmo, perché siamo veramente in una galassia nuova, eh. Per me questo è una galassia molto particolare, cioè l'aria è rarefatta, si respira arte, si respira innovazione, si respira partecipazione, gioia, entusiasmo. Beh, che dire, grazie Fedra. Io devo dire grazie a Setup e Radio Città Fujiko per aver organizzato i Coxo Spaziale Speciale a Setup, perché per la prima volta Coxo Spaziale, grazie a William Piana, ha avuto i suoi primi 3 minuti di vera radio. e siamo qui, lui in veste di co-conduttore coxico, che meraviglia, gli mettiamo anche il W, lui ce l'ha già perché è William con la V, però il W di Pasquini. Di Viva anche, Viva Pasquini. E in quanto co-conduttori siamo coxicicissimi e spazialissimi di accogliere il super mega galattico ospite di questa puntata di Coxo Spaziale Speciale Setup, il critico teatrale e studioso teatrale Michele Pascarella. Eccolo qua, ciao, buonasera, ciao. Ciao, benvenuto. Grazie, eccoci qua. Era da un po' che ci provavo a tirarti qui nelle reti del Coxo, alla fine ti ho portato grazie a Setup e grazie a Radio Città Fujiko in questo splendido studio e insieme a un co-conduttore veramente, veramente radiofonico per davvero. No, ma è veramente, io sono stordito dalla bellezza del nostro studio. Complimenti all'allestimento, ci porta indietro nel tempo, ci porta indietro per ricordare i nostri 40 anni e incredibilmente poi ci riflette in avanti con un'esplosione artistica molto, molto importante. Ma vogliamo presentare anche un'altra nostra ospite. Prima vorrei dire un'ultima cosa, un'altra cosina, agganciarmi sull'installazione, perché l'installazione è qui perché Radio Città Fujiko compie quest'anno 40 anni, esattamente come diciamo la madre delle esperienze fieristiche dedicate all'arte qui a Bologna, che è l'arte fiera, mentre Setup compie 4 anni e io ne compio 40 pure. Quindi insomma questo 4 ritorna, è un numero insomma bello stabile e non so che cosa c'entra, però sì, effettivamente c'è un altro super mega ospite, perché qui la coxicità rizomatica ha fatto sì che avessimo l'occasione di avere una delle persone che ha sperimentato il progetto di cui andremo a parlare, che andremo a presentare proprio stasera con Michele Pascarella. Si tratta di Opere Aperte, questo progetto, che poi entreremo nello specifico, e abbiamo qui con noi Lara Bianciardi, che saluto e alla quale do il benvenuto sui 103.1. ciao Lara. Grazie, ciao a tutti. Quindi sono... studio stadio gremito assolutamente, anche di contenuto in questo caso. È un onore essere in questa situazione, in questa realtà. A questo punto entriamo però nel concreto. Dimmi un po', cara Fedra. Michele Pascarella. Eccolo là. Siamo qui per parlare di Opere Aperte. Sì. Allora, che cos'è? Dici Opere cos'è? Aperte? Opere Aperte è un piccolo percorso in 3 incontri pensato per avvicinare chi non sa nulla di arti visive contemporanee. Io sempre quando ho in mente queste cose ho in mente la mia zia Antonietta, che è una cara persona, ma se le fai vedere, che ne so, un taglio di fontana o un ordinatorio di Duchamp, lei diciamo non è proprio contenta, non è che salta di gioia dicendo vorrei assolutamente averlo sopra il mio divano, ecco. E quindi dicevo, avvicinare chi non sa nulla di questo mondo ai linguaggi, alle forme, soprattutto al pensiero, al modo di guardare che sta dietro a queste forme, a queste opere. Questi sono tre incontri, dicevamo, divisi così. Il primo è pensato in relazione alle avanguardie storiche, cioè gli anni 10 del Novecento, dove ci sono tanti soggetti interessanti, tra cui ad esempio quello che qualcuno definisce un buffone o un millantatore, qualcun altro definisce il centro del centro del centro, cioè appunto il già nominato Marcel Duchamp. E il secondo incontro è pensato per gli anni, in relazione agli anni 60-70, e qui tra i tanti nomi possiamo nominarne una, che è ad esempio Yoko Ono, colei che per molti è la moglie antipatica di John Lennon, o colei che ha fatto sciogliere i Beatles. In realtà è anziana, ma è ancora al mondo, un'artista visiva appartenente a Fluxus e ad altre fantastiche avventure, decisamente interessante per il discorso che facciamo noi. Terzo incontro pensato in relazione ai giorni nostri, e cioè a realtà, esperienze che oggi ancora sono qui con noi. Forse può essere utile, non so, dire perché sto opere aperte, perché chiarisce abbastanza anche il punto di vista, nel senso che credo che questi ultimi 100 anni, parlando di arti visive, sono un momento, un'epoca, un tempo talmente ricco, pieno e denso di cose che, volendo, si poteva guardare adesso da tanti punti di osservazione. Bene, io ne ho scelto uno citando Umberto Eco e la sua opera aperta del libro dell'inizio anni 60, in cui lui raccontava un po', analizzava opere che, come dire, avevano bisogno del completamento della fruizione del pubblico, dell'osservatore, per realizzarsi del tutto. Quindi, diciamo, opere che si allontanavano dall'idea tradizionale del guardare e non toccare. Bene, quindi William, hai capito? E visto che tu hai capito, e che quindi stiamo andando lì dove sono riuscita a strappare, insomma, a Michele la proposta di farci un assaggio e farci sperimentare a noi, perché questo percorso poi tu lo fai in un modo il più partecipato possibile. C'è anche l'aneddoto simpatico che ci ha già raccontato al Cox sulle frequenze FM del cavolo. Ah, beh, questo è il cavolo, potremmo farlo prima. Farlo adesso. Hai un cavolo? Ti trovi un cavolo? Adesso dammi 2 minuti, metto un brano te lo porto. Va bene. Ok, allora dopo con il cavolo di Michele Pascarella. Restate con noi. The monster out of me. knocking at the window. A rat-tat-tat-tat, a rat-tat-tat. I dream I am an ostrich, head deep in the sand. There's a rhythm that's a playing, fantastic elastic band. Bogeyman went down on Mr. Spock. Sugar was a flowing socket to him side. I dreamt I saw a mookow jump across the moon. Just a flight of fancy, zoom, zoom, zoom. I dreamt I met a spaceman, he took me to a ship. You know he cut my hair off, snip, snip, snip. I dreamt that I was sleeping, asleep for heaven's sake. A dream I was a dreaming, it caused me to awake. Eccoci di nuovo qui sulle frequenze, pseudo frequenze, beh sicuramente coxiche frequenze di Radio Città Fujiko nei suoi momenti più coxici. Siamo per la terza puntata della seconda giornata dei Cox speciali a Setup nello studio di Radio Città Fujiko installato al primo piano di Setup. Venite a trovarci, saremo qui anche domani insieme al co-conduttore coxico eccezionale William Fiana, con il super mega galattico ospite Michele Pascarella, critico e storico di teatro, e Laura Bianciardi, sperimentatrice di Opere Aperte, il progetto di Michele Pascarella, che qui non ce lo fa, William, non ce lo fa. Ma infatti diciamo che è un grande limite in questo caso, poi in radio si vede benissimo, peccato per ascoltatori. Si vede di più, si vede di più, si vede oltre, si vede direttamente nella testa. Certo, e decisamente appunto mi collego a questa realtà descrittiva, quindi parlavamo in precedenza, no? Di quello che può essere l'immagine, di come viene riflessa, di come viene raccontata, di come viene rapportata. Tutto ciò in un percorso artistico, ma soprattutto in questa parte specifica vogliamo parlare di un'intersezione di linguaggi. Linguaggi fra arte e teatro. Che qua mi va anche un po' a tangere il coxo focus, se mi permetti, perché stiamo proprio facendo delle... È una brutta cosa? No, no, è coxicissima, è spazialissima, è super mega galattica come te in veste di co-conduttore. Yeah. E, sì, perché abbiamo detto che Michele Pascarella, o Michele, a seconda se lo vogliamo dire in dizione o meno, viene dall'alveo del teatro. Laddove invece Opere Aperte si riversa ad uno studio, ad un attraversamento dei codici delle arti. E purtroppo, vabbè, il cavolo non l'ho trovato, quindi non ce lo fa. Non però... lo facciamo, ma se fa piacere possiamo raccontare questo piccolo gioco. No, l'abbiamo già raccontato, non lo raccontiamo più. Lo raccontiamo? Magari lo raccontiamo e poi verso la fine chiediamo anche a Lara se ci spiega che effetto le ha fatto, visto che potremmo avere dei facciamo feedback. Meglio ancora, visto che Lara è qui e ha sperimentato con santa pazienza questi tre incontri di opere aperte appena fatti qui a Bologna. Voglio dire, ma perché l'esercizio del cavolo non lo facciamo raccontare a Lara? Ok, allora lo facciamo meglio. Raccontare a lei, no? Però poi tu quella cosa del perché critico e storico del teatro me lo dici dopo. Noi non ci esimiamo mai. Perfetto. Ti lascio Lara, ti lascio nelle mani di William. Certo, benvenuta cara Lara, finalmente abbiamo Ciao. Lara Bianciardi, appassionata d'arte e ovviamente con noi qui allo spazio coxico di Radio Città Fugico. Finalmente anche io ho imparato la parola coxico, vedi, riesco a pronunciarla, grazie a Fedra. Stavamo parlando di una particolare realtà legata a un cavolo, legata alle immagini, possiamo saperne di più? Io di solito pensavo che sotto il cavolo nascevano i bambini, invece in questo caso nascono altre ispirazioni, ce ne puoi parlare Lara? Esatto. Allora, sì, io ho seguito i tre incontri di Michele che mi sono piaciuti tantissimo e al primo incontro appunto un esercizio che abbiamo fatto è stato questo, cioè Michele ha preso un bel cavolo, anzi una verza, era una verza anche se tutti l'hanno chiamata cavolo e l'ha messa su un bel tavolino vintage e poi ci ha detto di descriverlo, cioè abbiamo preso carta e penna e l'abbiamo descritto. E ognuno ovviamente ha visto una cosa diversa e quindi era un po' questo il senso dell'esercizio, che vediamo quello che siamo, no? Certo, come l'immagine così apparente, beh un cavolo, beh una vanga, beh qualsiasi cosa, diventa improvvisamente un'immagine singolare per ogni persona. Beh, sì. Questo già è un messaggio importante. Sì. E questo, io sarei anche un pochino curiosa di sentire quali descrizioni sono venute fuori, chi si è concentrato più su cosa, quanti cavoli sono emersi, penso uno per ciascuna persona sì. lì presente. Sì. E questo mi apre a chiederti conferma di un'altra cosa, perché corre voce perché me l'ha detto Michele nel corso delle puntate del Cox su FM 103.1, ogni giovedì in diretta da Radio Città Fugico dalle 7 alle 8, e mi ha detto che lui queste opere aperte cerca di porle in un modo molto interattivo. Sì, sì. È vero? Me lo confermi anche tu? Sì, si interagisce in continuazione con commenti, poi si vincono delle bellissime cartoline lituane quando si dà la risposta giusta. No, è molto partecipativo, molto carino, perché a me, ti dico, è piaciuto tantissimo e vorrei che ne facesse altre un po' più lunghe. Beh, abbiamo detto poi che ci sono tre realtà, no? Tre situazioni, tre, hai parlato appunto. Sì, sono tre incontri. Tre incontri, legati tre a tre passaggi. Momenti storici. Non mi veniva la parola incontro. Incontri, volevo dirlo in maniera diversa, ma incontri direi che è la più azzeccata. Sì, sì. E quindi tutti sono di percorso, di crescita, di paragone, di confronto, insomma, come vi è come sono le intersezioni fra questi incontri, come vanno avanti, ecco, come procedono? Come dico, sono legati concretamente a tre momenti storici, va bene. E quello che si fa è nel concreto guardare una grande quantità di autori, di esempi, ma lo scopo qual è? Non tanto quello di fare un bignami della storia dell'arte, ma attraverso una quantità di esempi anche per me molto affascinanti e luminosi, io propongo quelli e non altri perché quelli mi sembrano interessanti, qua c'è un selfie in corso, guarda, è una cosa fantastica, ci vorrebbe una foto della foto dei fotografanti. Hai capito, gli abbiamo già dato ispirazione per un'altra cosa. C'è bella questa ma cosa, c'è tra... foto ma foto. Ti lancio, ti butto lì un'anticipazione butta. Che potrebbe essere utile per un prossimo attraversamento più contemporaneo, specifico sul contemporaneo, sì. di opere aperte. Abbiamo avuto come super mega galattico ospite proprio lì seduto, anzi in realtà seduto dove è seduta Lara, sì. e Fabio Cavallucci. Ah, il direttore di Prato, niente di meno. Luigi Pecci di Prato. Dopo un talk su orizzontalità dell'arte, creatività istituzionale, creatività pubblica, è venuto qui insieme a Maria Letizia Paiato e a Stefano W. Pasquini, che finalmente, se c'era con Cavallucci, mi è ritornato al Coxo. E insomma, sono partiti col dire che l'arte contemporanea è Instagram. L'arte contemporanea è Instagram. È calato il silenzio su questo. No, vabbè, ma è chiaro. Ma siamo d'accordo, cioè, nel senso che, come, e qui citiamo il famoso film di Woody Allen, come non me lo ricordo il titolo, quando sono loro in coda al cinema, che ci sono lui e lei in coda al cinema, poi c'è dietro uno che blattera parlando di, e a un certo punto viene fuori Marshall McLuhan, no, presente quel pezzo lì? Sì, un po' lo ricordo. Quel McLuhan lì del film di Woody Allen, in un libro suo famoso, cosa dice? Dice l'artista, dice, non è quello che se ne sta chiuso nella torre d'avorio a dibattere con i propri fantasmi per esprimere quello che ha dentro. L'artista è colui o colei che se ne sta non in una torre di avorio, ma in una torre di avvistamento, cioè che se ne sta a guardare non il proprio ombelico, quello che sente, ma la realtà. Quindi che Cavallucci, che ovviamente non ha certo bisogno che io dica che l'importanza che ha e il ruolo che ricopre, dica ciò, ovviamente cosa ci dice? Ci dice che tutte queste forme dell'arte hanno a che fare assolutamente con il mondo, non sono un aspetta che mi chiudo, mi separo, mi stacco e parlo con gli angeli, come si diceva una volta. Quello è il moderno. Eh beh. Noi siamo nel contemporaneo. Vabbè, ho capito, ma questa cosa qua rimane vera, no? E perché un critico teatrale storico del teatro si mette a parlare di arte? Beh, perché sicuramente almeno negli ultimi 100 anni questi... quindi queste separazioni così nette, che ad esempio nel Settecento hanno portato addirittura a fare delle simpatiche classifiche, no? Quindi più un'arte ti permette di imitare la realtà e più vale. Per cui ad esempio la musica, che era quella più sfigata perché l'imitazione del reale, della natura che ti dava, era piuttosto approssimativa, era l'ultimo posto. Bene, questa separazione così netta, da appunto dal famoso Marcel Duchamp in poi, è andata da un'altra parte. E quindi, se è vero che l'arte non è più solo imitazione della natura o della bella natura, l'arte non è neanche più così separata. Per cui ad esempio quando Marina Abramovic, che se ne pensi, fa le sue performance principalmente nei musei e non nei teatri, cosa ci dice? Ci dice che appunto che anche i luoghi fisici sono sempre più mescolati. Quando oggi il coreografo Martin Spangberg, che è uno studioso e teorico della danza, fa delle sue performance che non sono prodotte, cioè non sono pagate da un festival di teatro, non sono pagate dal MoMA di New York, cosa ci dice? Ci dice che questo mescolamento è una cosa che è veramente assolutamente vera e viva. Vedo che Lara annuisce. Sì, cioè sono d'accordo, nel mio piccolo sono d'accordo. Quindi la rottura degli steccati, la rottura dei recinti ovviamente è motivo di crescita, come in ogni imbastardimento, ma diciamo è anche una, secondo voi, una necessità, cioè come posso dire, è l'unico e per forza, cioè forzato e coatto motivo, visto che ormai si è scoperto tutto, come si dice in musica, nel jazz e in tante altre realtà vi è questo aspetto, dice, ormai si pensa solo in jazz, perché nella composizione, nel jazz è stato fatto il cool, l'arbop, il free, è già fatto ogni cosa, e quindi inevitabilmente bisogna pensare a rompere lo steccato. È un'ispirazione quindi o è una necessità per trovare qualcosa di nuovo? Ma io penso che il punto non sia neanche quello di trovare qualche cosa di nuovo, nel senso che, come si suol dire, tutto è stato detto, tutto è stato fatto, non credo neanche che a questo punto ci sia l'urgenza o il valore nella novità. Certo. No. Cioè, per dire, anche perché poi parliamoci chiaro, qual è un artista che fondamentalmente non fa sempre lo stesso spettacolo o variazioni sul tema dello stesso spettacolo? Cioè, prendiamo un grande a caso, Dario Fo. Dario Fo sono 100.000 anni che fa lo stesso spettacolo. Ha un altro grande che piace o meno, non so, Marco Paolini. Marco Paolini è un altro che fa lo stesso, cambia la storia, cambia il tema, ma lo spettacolo è quello. Prendiamo un altro, Miles Davis. Forse possiamo un attimo ragionarci, però anche lì. Allora, quello che dico è, non credo che il punto sia tanto quello, e non credo neanche il punto sia tanto la quindi necessità di innovarsi o rinnovarsi a tutti i costi. Viene in mente, c'è una grande poetessa, lei chiama se stessa, pur essendo una donna, chiama col maschile poeta, cioè Mariangela Gualtieri, che dice a un certo punto c'è in me qualche cosa più vecchio di me. E che io penso che il punto sia un po' anche questo qui, cioè cercare un qualche cosa, non tanto di nuovo a tutti i costi, ma di profondamente autenticamente antico, per cui secondo me guardare ciò che faceva il Poli Bayard del 1840 è interessante non tanto e non solo come dato storico o come aneddoto, che magari è anche simpatico sapere perché lui ha fatto l'autoritratto in forma di annegato, che erano motivi poco sentimentali e molto economici, e molto si era arrabbiato perché gli avevano rubato il brevetto e quindi aveva meno soldi in tasca. Ma al di là di questo, mi interessa, forse può essere interessante guardare tutta sta roba qua, quelle che fanno arrabbiare la mia zia, perché? Perché proprio quella rabbia lì fa sì che io forse mi possa accorgere di come io guardo alle cose, come io guardo a quel cavolo che nominavamo prima, come io guardo quindi alle cose della mia quotidianità, al di là di Duchamp, al di là, o meglio attraverso Duchamp o attraverso Yoko Ono, questo. Che dici, William? Ti ha convinto? Sì, mi ha convinto assolutamente, anzi è un motivo di dialogo sul quale si potrebbe dibattere a lungo. E soprattutto quello che volevamo aggiungere è che adesso facciamo uno stacco musicale, ok? A tra poco, restate sui 103.1 o in frequenza o in rete con noi. Thank you. noi, come tutte le cose belle, anche questa puntata di Coxo Spaziale Speciale Setup, che ha come super mega galattico ospite coxico Michele Pascarella, e magari poi ce l'abbiamo anche come co-conduttore, chissà, chissà, chissà. E invece che come co-conduttore occasionale ha qui una delle cime, delle colonne portanti di Radio Città Fujiko, William Piana. Ricordiamo che ieri abbiamo avuto il co-conduttore coxico occasionale da Radio Città Fujiko, Max Macchia. E siamo qui a salutare Michele Pascarella e Lara Bianciardi dopo questo attraversamento di opere e di arte. Sì, è stato molto bello parlare con voi, grazie infinitamente per la partecipazione. Ricordo, siamo a Setup Art Contemporary Art 2016, giunto alla quarta edizione, ovviamente vi aspettiamo, autostazione a Bologna, e che dire, grazie Fedra innanzitutto per avermi nominato come co-conduttore coxico, è stato un onore tenere la cloche di questa splendida astronave per una mezz'oretta, ma ovviamente seguiranno altri appuntamenti, che dire, restate con noi, grazie Lara. Grazie a voi. Michele, mi inchino e grazie. E io mi inchino a mia volta. Grazie, ci inchiniamo tutti, serata. Un inchinamento grazie. Reciproco. E sbattiamo le teste nell'incontro. insieme. Bene, ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao. Grazie. Se tu sei ta speciale. Cosa spaziale, speciale, eccezionale. Se tu sei ta speciale.